nel canale dei morti, non c'è mai nessuno qua, vabbè che io non stavo entrando perché non stavo bene, adesso acceso ho sentito a te. Ciao Ratari, vabbè, sempre così è, tutti morti, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Vabbè, ieri sera c'era Antonello, c'era poi chi è entrato. Io sono salito qua un attimo, stavo cercando cosa, ho acceso così, vediamo un po' se c'è qualcuno. E c'era Antonello, poi c'era Gianni che ha chiuso, poi nel momento che io ho acceso Gianni ha chiuso. E poi chi c'era? Un altro, Marco c'era, Marcolino c'era. E poi basta, io ho spento e basta, avevo da fare. Sì, infatti in questi giorni io non è che stavo molto bene, allora infatti ha già acceso là proprio Barosa Russi, che c'è mia moglie che è andata a messa e ancora non è tornata. Non ha cucinato niente, nulla non ho fatto, perché non mi sento bene in questi giorni. Vabbè, comunque bisogna fare un giro di telefonate per vedere qual è l'intenzione che ha la gente, se continuare o se dobbiamo buttare via tutto. Non si sente più nessuno. Sai cos'è? Che quando non c'è nessuno, uno anche se c'è, che vorrebbe parlare, non può perché non c'è nessuno, allora spegne e tra non c'è nessuno e non entra più. Bisognerebbe cercare di riorganizzarci, se è possibile, se siamo capaci, se ne siamo capaci, non lo so, perché a Rosario e a Sassari non è possibile organizzare niente, perché non fa in tempo a organizzare che è già tutto sfasciato subito, come è successo qualche anno fa, ti ricordi? Sì, infatti, ma dimmi tu, io adesso non lo so se stava entrando gente in questi giorni, perché manco accendevo che ero sempre coricato, figurati. E bisognerebbe telefonare e riunirci un po' per riorganizzare il tutto, perché qua sta andando tutto a catafascio, se no, come la sanità. Allora faccio anche un po' d'esami, la vai, non bisogno lunghi. Dimmi tu. No, bisogno lunghi perché vogliono soldi. Ormai la sanità vuole soldi, non le fa più gratis con l'esenzione. Deve pagare le visite, le deve pagare. Una donna mi stava dicendo che ha pagato 600 euro per comprare una medicina che non si trova, che c'era solo il Vaticano, ti puoi immaginare a che punto siamo arrivati. Non è possibile. Chi altro che non è possibile? Adesso queste due, quella diabetologica l'ho fatta, che c'avevo già l'appuntamento, quella dell'oculista l'ho fatta a pagamento, perché quello dell'INAM, oltre che me l'ha fatta male la visita, non mi ha ordinato gli occhiali e quindi sono dovuto andare a pagamento e devo ritornarci fra 6 mesi perché ho le cataratte e non stanno operando. Mi ha detto questa curiosità qua, cosa vuoi ti dire? Ah, l'esame di rusangola giù, pagarli, ma cosa l'esenzione non vale perché non li stanno pagando, la regione deve essere, purtroppo li fanno pagare a te. Buongiorno. Sì, ma è così, ormai non, la sanità non ti dà più niente, è tutto a pagamento. Ho pagato 270 euro io, ho già pagato l'altra lì, che si può immaginare, quando è 15 giorni più o meno, 15-20 giorni fa, 270 euro. È purtroppo così. Avanti, buongiorno, chi era Franco? No, sono io, ciao Giulio e ciao Catarina. Tonino e ciao Tony, buongiorno. Stavamo parlando di quello perché non c'è più nessuno a baracchino, no, Tony. Accendi, senti nessuno, e allora cosa fai? Ascoltare QRM, si spegne e basta. Io tante volte mi trattengo con la speranza che qualcuno entri, ma non entra nessuno, tutta la sera acceso e non si sente nessuno. E allora fatto lì? Io niente, ero proprio entrato e trabacco mattina e sera e insomma ho fatto un grosso lavoro e quindi comunque è rimasto solo la finale, ma la finale non posso farsi quando il curatore non ci dà il placcaggio e il resto lo faccio io. Ok, collegare tutti i bifili e basta. Tutto qua. Stavo ascoltando nel senso, comunque ho aggiunto le due, nel senso che le cataratte da poco anche al Cile le hanno fatte, quindi. L'oculista mi ha detto che hanno smesso di operare, hai capito? Non stanno operando, se no mi avrebbe messo in lista, no? Ha detto a tornare fra 6 mesi, se hanno smaltito qualche posto, così mi cerca di mettermi in lista per farmi operare. Occhiali non me ne ha potuto ordinare perché non è per gli occhiali che non vedo, è perché ho le cataratte. Mi ha fatto questa visita a pagamento, però pagende. Se poi non ti deve bucare anche a patente, quindi va benissimo così, non faccio niente, io non pago nulla, né medicine, né visite, né niente. Ok, sì, comunque Giulio c'ha ragione, anche io accendo qualche volta spazio, non c'è nessuno, spiego tutto dico alla televisione, capito? Oppure metto su Facebook, eccetera, eccetera. E se non è su, qualche volta ho fischiato sul liscio, non c'è nessuno e niente, aspetto, cosa vuoi? Che esito pure io. E come diceva Talino, è un canale di morti. Comunque mi fa piacere di sentirti, dai. Avanti Giulio. Ok Tony, certo. Anche a me mi ha fatto piacere di sentirti e di sentire anche a Natalino, perché eravamo un bel po' di giorni senza sentirci proprio. Ieri sera avrei avuto l'occasione di fare 4 chiacchiere, ma purtroppo sono arrivato all'ora che dovevo fare la terapia, per cui no, sono salito a prendere quello che mi serviva e ho dovuto chiudere per fare la terapia. Però se no c'era Torello, c'era Marco, e per un attimo, proprio quando io stavo, ho acceso, stava chiudendo Gianni, si vede che c'era una prima, poi se c'era una morto, questo non te lo so dire. Comunque, fatto sta che io durante la giornata faccio diversi tentativi, ma non sento mai nessuno, e cosa vuoi? Anche alle volte lascio tutta la mattina o tutta la sera acceso per sentire, per vedere se qualcuno entra, ma niente, tutto silenzio assoluto, purtroppo è così. Vabbè, evidentemente la gente si è stancata. Infatti stavo pensando di fare un giro di telefonate per cercare di riattivare questa frequenza, ragazzi, perché il continente ancora ci sono, noi non vediamo più i loghi, sembriamo tutti defunti, Doni. Mi prende a far girare, vai, per Natalino. Secca, poi non la regala niente. Io ripeto la verità, Giulio, arrivavo a casa all'1:20, mangiavo il morso, 2:30 di nuovo lavoro, uscivo alle 6, ero mezzo crepato. Non facevo altro che mangiare una mela, un arancio, non c'era poi neanche voglio cucinare, prima mi coricavo e domani torno a Prevacco, insomma. È stato, diciamo, più di 2 settimane e ho fatto di tutto, quindi. Non solo elettrico, ma anche idrico, eccetera, eccetera. E insomma, mi ha veramente provato. Ok, niente, io devo partire, devo fare ieri e oggi vicino a Brescia, perché c'è la grande fiera, ma poi non me la più lo faccio qua. Non mi piace un baracchino, e anche la fiera dell'elettronica, poi ho fatto dei baracchini, eccetera, ma anche lo faccio qua. Oh, la padina, oh, lascia perdere. E niente, mi basta quello che c'è il baracchino, ma non c'è bisogno di andare oltre. Ok, Natalia, riprendi. Infatti, io non compareggio più nulla, tanto baragliente che vè, bisognerebbe sentirci per telefono un po', fare qualche giro di telefonate, come stava dicendo Giulio, a chi se noi no che tocca darla tutta e l'ha pazzeduto. Basta avere un po' di armonia, entrare, se ognuno la pensa così, no, non c'è nessuno, non entra neanche a buonanotte. Non costa nulla, telefono acceso, ho 15 minuti, un quarto d'ora, non vedo nessuno, lo spengo. Ma io se accendo un paio di fischi le faccio, c'è nessuno, c'è qualcuno, almeno parlo. Se uno mi sente entra, ma siccome non entra nessuno, allora non mi risponde nessuno, alla fine poi spengo, è ovvio. le dita davanti all'apparecchio senza sentire nessuno, e cosa ascolti? Capita, a un certo punto uno dice, ma cosa ti comprendi? Sto ascoltando il rumore, basta, il rumore non serve a niente, non è come a parlare con un mulo, la stessa cosa, se tu ascolti il rumore, non cambia niente. Per cui, purtroppo è andata così. Ci siamo stancati un po' tutti, questo sì, ma io sinceramente la passione per la radio ce l'ho ancora. Se poi gli altri si sono stancati non lo so. Qualcuno di tanto in tanto già si sente, ma ogni 15 giorni sente qualcuno. Cosa vuoi che tu mi cado lì? Non è possibile. Andiamo avanti lo stesso, dai, non c'è problema. Possiamo sopravvivere lo stesso Natalì, vai. E infatti, io addirittura, siccome c'ho il computer vecchio che c'ha 20 anni, questo qui sta sempre andando, però ha detto che fra 4 mesi ci devi rampare. E quindi mi ho ordinato i pezzi per costruirmi uno di nuova generazione, perché questo non è neanche adatto per Windows 11, che te lo mettono loro automaticamente, e quindi questo qui lo dovrò buttare praticamente. Mi ho ordinato i pezzi, adesso se mi sento bene quando mi arrivano tutti i pezzi, mi è arrivato solo l'alimentatore, tutto l'altro no. Adesso me lo costruisco un altro, così è pronto per a chi se, tra 7 mesi non danno più supporto né aggiornamenti, fanno su Windows 10 e se è vecchio il computer no, si blocca, capito? Sì, e beh certo, sei vecchio, se ormai è passato il suo tempo, non so, ogni 2 o 3 anni non si aggiorna più e allora bisogna passare ad un altro nuovo moderno. Non so, forse stai sentendo qualche fischio perché ho messo una cassa esterna, vediamo, la mettiamo così, se si sente ancora, no, così non si dovrebbe sentire. Stavo dicendo, per cui, no, io ce l'ho nuovo, a me me l'hanno regalato a Natale, mia figlia me l'ha regalato a Natale, con il computer nuovo e altre cose anche, per cui già sono ben attrezzato. Avanti Tony. E io ce l'ho un computer, ma messo nella borsa, nell'armadio, non è messo da parte, perché anziché di attaccarlo la mandolina col telefonino entro tutte le parti, quindi arrivato a questo punto, cosa ne so, quando sarò più ancora grande età che non volevo subire, ma attacco il computer, mi muovo se potrò e ci via. Adesso così per adesso. Adesso vado avanti nel lavoro, eccetera. E io lo uso perché mi manda via email le cose, le ricette della dottoressa. E gliele stampa mia moglie e la mando a prendermi le medicine. Per quello mi lo sto usando. No? Adesso in questa settimana non mi sentivo bene neanche, non accendevo nulla, a chi lo sempre guccato, non mi intendi bene. E non mi sento ancora bene. Ma io guarda, c'ho anche la stampante qua, la ricetta, io chiedo, mando un messaggio alla dottoressa, mi arriva via email, me ne trasmetto sulla stampante, me ne faccio il cartaceo, porta la faccia e me lo dici. Ho sempre fatto così, grazie a Dio. Quindi e niente, sempre l'angolo qua nel baracchino e niente, rimane così, c'è il panno sopra per appolvere, vabbè che all'interno proprio non rimane in ogni gonfio, per il sicuro. E niente, facendo così tanto per sfizio, ogni sera accendo 2 o 3 minuti, 5 minuti, finisco, non c'è nessuno, aspetto la troppa e aspetto tutto, ma che calare le mazzi, non ha negato niente, non ho capito perché non era voglia. Cosa cosa? Passano mezz'oretta con gli amici, 2 chiacchiere, via, ci si può anche organizzare qualche pizzata, qualche panini, qualche cosa, un caffè, insomma. E invece no, nulla, la niente, si ricarica in casa, oppure si dà dei baffi dolci, e vabbè, e continuano a negare. Io ripeto, la sento questo periodo perché stavo troppo attento. Però a me se uno mi chiamava, mi chiedeva il caffè io. Avanti Giulio. ho chiesto, ma non lo so, dipende da me, o non lo so, perché sentivo che stavi innescando abbastanza forte, Tony. Aspetta un po'. Ecco, adesso ho abbassato. Mi siete video? Adesso va benissimo, così va benissimo. Si è fatto praticamente tutto il passaggio con l'innesco. Sì, sì, adesso va benissimo, lascia così che va benissimo. No, ero convinto, siccome ho messo una cosa esterna io per ascoltare dall'esterno, diciamo, dai, e non dal malacchino delle traverse, ma che stia facendo rispetto che dipenda dal coso mio, invece no, ho provato a staccarlo e l'innesco c'era sempre, per cui Torino sta innescando, evidentemente qualcosina che non sta andando come si dovrebbe. Va bene, così va bene Torino, non c'è problema. La mattina sta lì. Sì, infatti, ma mia moglie ancora non è tornata. Vabbè, vuol dire che ha da fare, poi se è andata a messa, la messa magari non è finita ancora, andata lì, è chiaro, se uno va a messa aspetta fin quando non termina, poi esce dalla chiesa, no? Penso che sia così, io non ci vado mai in chiesa, però suppongo che sia così. Tu cosa ne dici, Tony? Io guarda, stamattina presto sono uscito prestissimo. Alle 8 sono andato alla pagoda, anziché a Fontanella, e mi sono preso una dozzina di tazze. Vabbè, perché c'ho anche qualche vitazzo, diciamo. Ma veramente buone, saporite, ho preso anche dei tabacchi, insomma, zuppati in rum, buone. Ogni tanto mi do una pasta a Giulia, ho visto che le glicemie è bassa, allora ne ho approfittato. Poi Natalie, il mio diabetologo quando poi essere già andato in pensione, mi hanno telefonato che automaticamente non devo fare quella visita al 15 marzo e mi chiameranno loro con chi mi hanno messo. Io sono proposto di telefonarti, ascolti, mi mette per San Camillo che è più vicino a casa mia, anziché fare il tuo con la filastrocca. Se me lo accettano è bene, se no sarebbe gli annunci. Chiama al cupu e glielo dici se c'ha posti a San Camillo, ti fai mettere lì direttamente. Capito? Rubiano, l'ho fatta l'altro giorno io la visita, il piano terapeutico te lo fa il tuo medico di famiglia, a chi mi ha dato un foglio dalla dottoressa, la diabetologa, non fanno più neanche il piano terapeutico loro. Accidenti, signore, sono dimittente, capitina. E vabbè, domani chiamo un gruppo, glielo dico, perché mi è molto più facile, dai, è più vicino a me. Io porto 420 su quel mito, capito? Anzi, che andare a finire, sì, una mazza di nefaria. Hai capito? Allora, il mio diabetologo, Pancino, dottor Pancino, doveva dare pensione a fine marzo. A quanto pare sono andato molto prima, la mazza di nefaria. E infatti mi ha detto, non mi raccomando, non si preoccupi, venga prima così puntuale, perché poi sarebbe più piaciuto, non lo trovo più. E invece mi hanno telefonato loro che si è andato già in pensione. E allora, se la piglia lui. Allora, sì, infatti l'ho già pensato, andata lì. Ti fai mettere a San Camillo perché è più vicino. E risparmia benzina e tutto. Avanti Giulio. Sì, ma è così, Antonio, oggi la sanità vogliono solo soldi e basta, non c'è niente da fare. Io ho fatto 15-20 giorni fa l'ultima visita che ho fatto, praticamente era la TAC, e io l'ho sempre fatta con la sanità, non ho mai pagato niente, quest'ultima che dovevo fare adesso ho dovuto pagare 270 euro, se no avrei dovuto aspettare chissà quanto tempo, perché addirittura ci sono delle visite già assegnate, o meglio già occupate per un anno e mezzo addirittura, una cosa spaventosa, ma non è possibile. E allora loro stessi mi hanno detto, guardi, la faccia a pagamento, perché intanto non ci riuscirai in nessuna maniera ad avere questa visita qua se non la fa a pagamento. E ok, se quanto si paga? 200 euro prima mi vale. Va bene, d'accordo, basta, già vengo per un paio di giorni, eventualmente se non riesco ad organizzarmela così con la sanità, allora la farò a pagamento. Sto andando invece anziché 260 euro, una cosa vergognosa, guarda, veramente, la vuoi aver pagato l'indassi, ma la sanità ti fanno pagare tutti questi soldi, è veramente una vergogna. Adesso grazie a Dio io sono potuto pagare, ma c'è gente che non può pagare, grazie, che non ce la fa, purtroppo cosa deve fare? Deve rinunciare a fare le visite, vergognoso veramente Tony, guarda, non si capisce più niente. Quando tu hai trovato 200 euro, vabbè, ti sei un vinto di Napira, sì, la farò mai tempo. Penso che li vedi sia, io ripeto, già sto bene, però ripeto, guarda Dio, non pago per che cosa, se tu dici pagare, pago pazienza, cosa vuol dire? Se devo fare la vista, la faccio, e bene, posso farla, per la salute, guarda, un po' di salute per mangiare, io sono il primo, per altri cosi ci penso 10 volte, o per divertimento a conto, ma per la salute, guarda, per me la priorità è quello lì, la salute, poi mangiare, non guardo spese. Ok, Natalino, e allora tu, passe, o... Scusa che c'ho un QTC con la 50. Ok, d'accordo, tu un QTC allora. Capito Giulio, è così purtroppo, è che ci vuoi fare. Comandano loro. La Candennato dice, ma so che la compagna dice epidemia, guarda, del Covid, no? Tutti a provocazione, non c'è posta, poi si gratta, le non fate nulla, ne hanno approfittato, fanno schifo, avanti giù. Sì, ma guarda, a questo punto anch'io mi sono convinto, prima pensavo, ma non è possibile che tutte queste cose possano essere causate proprio dalla pandemia che c'è stata, eccetera. E poi tra l'altro c'è ancora, perché non sarà pandemia, comunque c'è sempre il virus in circolazione, perché tutti i giorni ce ne sentono che ci sono dei contagi. Infatti bisogna stare attenti, io infatti, quando vado dove c'è molta gente, in negozi affollati, eccetera, uso sempre la mascherina, ma che non si sa mai, alla mia età è anche più rischioso, tra l'altro, no? Oltretutto. Perciò è meglio cercare di riguardarsi, non solamente per me, ma anche per rispettare gli altri, le altre persone, quello soprattutto. Perciò è meglio andarci piano. Ma cosa vuoi che ti dica, Antonio? Boh, non se ne capisce più niente veramente, guarda, non se ne capisce più niente. Adesso grazie a Dio l'altro controllo lo devo fare fra un anno, prima la facevo io 6 mesi, adesso me l'hanno passata un anno il controllo. Sono qui a Trincanne, guardi, 5 anni a giugno, sempre con questa storia, che grazie a Dio sembra che non c'è più niente, è tutto a posto, però dice i controlli deve fare perché non si sa mai, e quel disturbo si può anche risvegliare perché è successo a tante persone, perciò è meglio sempre controllarsi per intervenire in tempo, capito Tony? Prima andavi, sì, prendevi il numero, ti sedivi, c'è tanta gente, facevi la fila, allora non ti passa, ma che traccia, la guardia giurata, all'appuntamento, se non entri, capito? Allora chiami, spesa l'appuntamento, ti verrebbe il messaggio al telefonino, voi, la dico come te l'hai fatto un casino, guarda, per carità. No, è tutto cambiato, purtroppo la padronia e il governo non fa niente, peggio di prima. Mi pare che c'è pure della guerra, cioè ciò che è. Il Papa si è convertito, quando fai dice che l'Ucraina deve mettere la bandiera bianca, è certo, non si può competere con la Russia, ma stiamo scherzando. Io sono un fan di Putin, che non me la putti nulla, perché come fa un Zelensky che era un pagliaccio, ma che era un pagliaccio, un comico, a essere presidente e essere contro la Russia? E sempre tu mandate di là, e io sto pensando una cosa, non è che sono Zelensky invece, sa sempre che do soldi e poi si fa un bel malloppone e sparisce dalla circolazione, no? E molti migliaia di persone, città distrutte, sì, e a fin dei conti, sai che non ce la fai, perché vuoi l'aiuto agli altri? L'America quanto pare si è già rompendo il canto della città Ghiglio, infatti Trump ha detto che senza lui non aiuta più nessuno, fa ragione. Purtroppo Ghiglio tedeschi è troppo rompendo il canto, poi Cameroni, 100 milioni ai paesi più poveri, la massa gliene pare buonetta, perché in Italia quando siamo ricchi, siamo maxi la miglia luci, la sanità si è stata a farsi fottere, non c'è più niente, impressionato che abbia sempre passato il soldi per mangiare loro sette canassi, mi fa un buco di tassi e poi lo fanno andare a Ramenco. No, guarda, io mi sa, sì, sono molto più vicino alla partenza Mennato, guarda, in Tenerife a Portogallo e si rabbia luce in Italia, gatto Mennato, avanti giù. Sarebbe una buona soluzione, magari andarsene fuori, ma purtroppo non è che puoi spostare la famiglia così, cosa vuoi che ti dica Tony? Se no, con la pensione che prendiamo, veramente, guarda, sarebbe veramente una gran bella vita andando in certi paesi dove si spende di meno perché per vivere, ne avanzerebbero anche dei soldi. Purtroppo è così, cosa vuoi fare? Oggi stanno pensando più alla guerra che alla sanità e alla povera gente, quelli che prendono per dire 400 euro di pensione, tanto per fare una cifra così a caso, che poi non è a caso, perché questa è la realtà, perché c'è gente che prende anche di meno. Vergognoso, ragazzi. Come fa uno con 400 euro a poter sbarcare il lunario? Non è possibile, ragazzi. No, io manco 1500 euro al mese, uno non ce la può fare nella maniera più assoluta. Si può considerare fortunato, si possono considerare fortunate le persone che ad esempio hanno la casa, come grazie a Dio c'ho io, e non paga l'affitto, eccetera, eccetera. Ma non dipende di prima di là, sempre quello. Il discorso è sempre lì, il discorso è sempre quello. Ma lasciamo perdere me, è una storia a parte la mia. Ma c'è tanta gente che veramente va a mangiare nei cassonisti, non è possibile, Tony, che una nazione democratica come l'Italia si debba essere ridotta in questa maniera, gente che va a cercare da mangiare dentro i cassonisti della Mondetta, veramente vergognoso, guarda. Guarda, io giro molto in macchina e ti dico una cosa, quando sono passato davanti all'ex questura ho visto un nostro ex collega che in pensione facendo la fila alla Caritas. Cazzo, ma lì che Marco qui alla pensione. Poi invece mi sono informato, lui purtroppo ha perso 12 anni di LSU, aveva i contributi figurativi e non contributivi e sta prendendo una pensione proprio misera, non so se arriva a 700 euro al mese. Io prendo molto, ma non in più, però non c'è problema, ma ho sempre lavorato, non ho perso, diciamo così, questi anni che ha perso questo Renato, il nostro ex collega. Infatti ho detto perché parla, che vergogna, però dai. Ma cosa mangiare pane duro, ma c'è rimasta in fila a prendere la roba di questi qua, ma siamo scherzati. Vabbè, detto che a uno gli serve, ma io visto che c'è gente anche che sta bene, ma ti ora vanno lì e recuperi già lì. Delle magici, anche lì mi dicevano di tutti, di tutti un po', ce ne sono rumeni, ce ne sono di extracomunitari, ve ne sono di tutti i colori, sassarici, che te ne pari. No. Siamo arrivati a un periodo, guarda, per carità, io infatti la decisione di andare fuori perché non posso continuare qua a stare in Italia. Cioè io ho passato 40 anni di contributi, anche se non vedo più lungo, non potrei essere tutti uguali, tanto, detto finita che sia. Insomma, e poi ti fanno, per me ti butta in due, ti fanno tasse. Ma visto che non si può neanche più fare la spesa, prendiamo le volte che era il più tracciato che c'era l'aerospin. Non si può neanche più prendere lo spin. Io mi sono preso un po' leggermente diversi dai germetti questi MD. E c'è anche roba di marca, cosa lo spino non è roba di marca, per dirti. Ho visto dei fitti di pollo, minimo 5-6 euro lì allo spino, mentre se si fitti di pollo è 3-4 fettine, 3 euro spiccio e metti, già, quindi. Io comunque guarda, ho fatto una bella scorta di carne, pesce, e polsetto, freezer, tutto quello che c'ho, perché adesso basta, non vado più a comprare lo spinto, assolutamente. Come pesce ho preso sul gelato, polpo, seppie, insomma, per amare fuori tutto ho preso sin da Alice, e a ricrosso proprio, e non si può. Come fa, poveraccio, qualche figlia con una pensione, no, per la, io faccio anche lavoro a conto mio, incasso, e purtroppo, Giulio, siamo messi nelle mani di persone che pensano a mangiare loro e non far mangiare i poveri italiani che avevano portato, quindi riprendi Giulio. Sì, purtroppo è così, no, questo ormai è appunto da tantissimo tempo, non è da adesso che è da sempre stato così, veramente, e io ho sempre detto, la politica soprattutto è la bestia nera dell'umanità, perché non riesce mai a mettere in condizione i poveri di vivere in maniera decente, proprio, non dico da ricchi, però senza perdere la dignità di andare alla gente ai cassonetti come tanta gente fa per cercarsi da mangiare, è veramente vergognoso. C'avevo visto anch'io la fila tante volte lì, quando passo davanti alla vecchia questura lì, ci sono tutti quanti in fila, poverissima, persone che anch'io, qualcuno, non è che li conosco, però di vista so che è gente che poteva stare bene, perché hanno fatto dei lavori che potevano andare avanti, evidentemente con quello che prendono di pensione non ce la fanno, allora si rivolgono lì, ma c'era un periodo, quando io ancora lavoravo, mi ricordo, c'era un turbino che prendeva una buonissima pensione, era ormai lui era pensionato, e tutti i giorni andava di proposito, però questo qui faceva il fumo, andava, si prendeva la sua razione, il suo pacchetto, si prendeva, poi andava nel palazzo dove abitava lui, abitava, e si vendeva quello che le davano lì alla recezione, chiamiamola così, dai, il posto di punto di distribuzione. E lui ci prendeva, evidentemente c'era in quel palazzo dove abitava lui, c'era la gente proprio anziana, proprio che riusciva, che non poteva mangiare nemmeno uscire, e lui prendeva quello, il pacco che le regalavano, se li vendeva. E questo era perché l'ho conosciuto bene, perché ha fatto, quando era giovane, faceva anche l'arbitro di calcio, figurati, ha arbitrato tante partite quando io giocavo, eccetera. E dunque una persona che io conoscevo molto, ma molto bene. Capito, Tony? Ci sono anche questi egoisti comunque, questi ripigli, proprio una persona incompetente, incosciente, a bravoso, che ci va a vendere la roba che va a chiedere per farsi soldi. Quindi io quello l'avrei messo sulla lista nera, sai che la vicina non si può, dai, e gira gira da un altro che veramente ha bisogno, Nathalie, sei ritratto? Fare. Vabbè Giulio, dai, io metto a servire al bagno, che aiuto in cucina, e alla forza di cucinare, perché non so fare fare tutto da solo, visto che per 3 giorni già mettiamo l'acqua a scaldare e poi mettiamo i ravioli. Il sugo l'ho già fatto questa mattina presto, un bel ragù così. Ok Giulio, dai, ti ringrazio per questo, la compagnia è tutto, saluto anche chi c'è in ascolto, Natalino, la compagnia per tanto, io ho questa frequenza, ma sento fammi due chiacchiere perché mi fa piacere, quando sento i miei amici mi fa voglia di entrare e dire due chiacchiere anch'io, capito, neanche per dire che ha finito, non è più entrato, oggi domenica, adesso sono un po' a riposo, quindi ne approfitto, d'accordo, spero di scoppiarti ancora, comunque se accendi già accendo anch'io, e più tardi, e ci sentiamo domani, qualche giorno, già entro su 10, faccio qualche chiamata, vediamo un po' chi mi risponde. Ok Giulio, un po' carica batteria quando lo farai, sotto la Corea, ci sentiamo alle prossime, grazie per la prossima, ciao ciao. Ok, grazie a te Tony, la speranza di sentirci è tuttavia, guarda, veramente, perché mi piace riascoltarti, soprattutto molto spesso. Pertanto così scambiamo 4 chiacchiere, visto e considerato che ormai siamo tutte persone adulte, bambini non ce ne sono più, perciò possiamo fare anche discorsi di un certo livello, senza stare lì a dire cretinate, come tante volte abbiamo anche detto, per cui va benissimo così. Ti ringrazio ancora Tony per il QSO e grazie per averti riascoltato, per esserti riascoltato. ascoltato da parte mia. Ci sentiamo le prossime, dai. Buon pranzo anche a te. Fai pure a cucina, io no, di questo problema non ne ho, perché già c'è mia moglie che cucina lì, perciò io vado direttamente a mangiare, anche perché non saprei cucinare, dunque sarebbe uno schifo il pranzo che farei io, mi mancherebbe altro. Ok Tony, grazie ancora per il consiglio, dai, al prossimo ci sentiamo, dai, ciao ciao. No, io già so cucinare, però mi piace anche aiutare, dai, non solo mangiare, mangiare piace a tutti, però Giulio, bella questa. Ok, d'accordo, sono il finalino, ci sentiamo, ciao di nuovo, ancora quando la parte via, ciao ciao. Ciao di nuovo Tony, ciao, grazie ancora per questo, ciao. Natalino, se sei all'ascolto io ti saluto, dai, visto che sono rimasto da solo, chiudo anch'io, ci sentiamo prossimamente, eventualmente, dai. Ciao Natalino, se mi stai ascoltando, ciao. Ciao Tonino e ciao Giulio, io ero in cucina che stavo facendo, te l'avevo detto che non avevo fatto nulla, che stavo aspettando alla 50. Vabbè, dai, ci sentiamo al prossimo. Tanti saluti, Giulio e Tonino. Ok. Ok, no, se tu entri io mi trattengo ancora, o Natalino, non c'è problema. Ciao Concetta, grazie per i saluti ricambiati al 100% di cuore, veramente. Sì, sicuramente ci avrà contato anche Tonino, non so se aveva già sento, in quel caso faccio un attimo di bianco, così lui ti risponde ai saluti che gli hai fatto. Vai Tonino. Giulio, guarda che adesso Natalino non c'è che in cucina, ciao. Ah, ok, d'accordo, evidentemente anche Tonino aveva già chiuso, non è rimasto con la parete accesa. Ciao, ciao Conce, alle prossime, grazie per essere entrato a salutare, ciao, ciao. Salutami ancora Natalino e buon appetito appena pranzate, dai, ciao, ciao. Ok, ciao, ciao, e buon pranzo anche a voi in famiglia. Grazie, grazie, altrettanto. Ciao, ciao, concetto.